Anch'io. Che cosa si può fare per festeggiare questa bella riunione? Alzati, dai, che t'abbracci. Dopo. Si può sapere dove è stato il signorino tutta la notte? In un fosso. In un fosso, e dove? Laggiù. E non dove è nato? Sì, ma lo so. Ma sempre gli stessi? Gli stessi, che ne sa, ci saranno sempre gli stessi. Quando pensa a che cosa saresti stato senza di me tutto sto tempo, guarda, mi viene la pelle d'oca, mi si arriccia tutta la pelle. Guarda come arriccia. Saresti un mucchietto d'ossa oggi come oggi. Ci scommetteremo. E con questo? Troppo per un uomo solo. Ma è inutile scoraggiarsi adesso. Avremmo dovuto pensarci secoli fa. Nel 1900. Basta! Dammi una mano a togliere questa schifezza! Tenendoci per mano, ci saremmo potuti buttare all'unisono dalla Torre Eiffel. Così, guarda, faccio. Eravamo in gamba allora. Adesso manco ci fare con la salita. Che sta a fare? Mi sto facendo a ballo. Mi sto togliendo una scarpa. Non ti è mai capitato a te? Quante volte ti ho detto che bisogna levarsene tutti i santi giù? Aiutami! Hai male? Ho male, mi racchiedo se ho male! Ecco, sei sempre solo lui a soffrire. Io non conto niente, ma se sapessi quello che soffro io, te renderesti conto. Ma che hai avuto male? Se ho avuto male, lui mi viene a chiedere se ho avuto male. Questa non era buona ragione per non abbottonarsi. Ma è vero, scusi. Ecco, sì. Un vero signore si vede proprio dalle piccole cose. Che vuoi che ti dica? Tu aspetti sempre l'ultimo momento. L'ultimo momento. Camba cavallo che l'erba cresce. A lui aiutare, no. Certe volte mi sembra proprio che ci siamo. Allora mi sento tutto sollevato e al tempo stesso spaventato. Ecco, se la parola giusta è spaventato. Questa poi, insomma, allora niente. Dai, fammi vedere. Ne già sta niente da fare. Cerca di rimetterla. No, voglio lasciarlo respirare un poco. Ecco come sono fatti gli uomini. Se la prendono con la scarpa quando la colpa è tutta del piede. La cosa comincia a preoccuparmi. Comincia proprio a preoccuparmi la cosa. Uno dei due ladroni si salvò. Beh, è già una cosa. Senti, Gogo. Cosa? E se ci pentissimo? Di cosa? Di essere nati? Non si può manco ridere? Si può solo sorridere? Beh, non è la stessa cosa. Gogo. Che cosa c'è adesso? Hai mai letto la Bibbia? La Bibbia? Mi pare che ci ho dato un'occhiata. Alla scuola laica? Ma che ne sa, zia, se era laica o non era laica? Ma non è che ti confondi con il riformatorio? Puttarsi. Mi ricordo le carte geografiche della Terra Santa, a colori. Erano bellissime. Il mar Morto era celeste, mi metteva sempre solo a guardarlo. Pensavo sempre, è là che voglio andare in luna di miele. Voteremo, saremo felici. Mamma mia, avresti dovuto essere un grande poeta. Lo sono stato, ma perché non sei vita? No. Cos'è che dicevo? Ah sì, ecco, sì. Come va col piede? Gonfia. Ah, no, non mi ricordo. Sì, no, la storia dei ladroni, ti ricordi? No. Vuoi che te la racconti? No. Due ladroni furono crocifissi insieme al nostro Signore, al Salvatore. Si dice... Il cosa? Il Salvatore. Si dice che uno dei due ladroni fu salvato e l'altro... dannato. Salvato da... dall'inferno. Oh, io me ne vado. E tuttavia, come si spiega che... Non è tannoio? Non sto ascoltando. Bene, come si spiega che dei quattro evangelisti uno solo racconta la storia in questa maniera? Eppure Cristo e la Madonna erano tutti e quattro là sul Golgota. Eppure uno solo racconta la storia in questa maniera. No, per favore, dammi un attimo la replica ogni tanto. Sto ascoltando. Allora, uno su quattro. In quanto agli altri tre... Due proprio non ne parlano affatto. E il terzo dice che l'hanno insolentito tutti e due. Chi? Cosa? Non mi stai facendo capire niente. Insolentito chi? Il Salvatore. E perché? Perché non ha potuto salvarli. Dall'inferno. Dalla morte, Cristo! E allora? E allora furono dannati tutti e due. E con questo? Sì, ma l'altro dice che uno fu salvato. E con ciò vuol dire che non sono d'accordo, punto e basta. Uno su quattro! E perché dovremmo credere a lui piuttosto che agli altri? Ma chi lo crede? Lo credono tutti, Cristo la Madonna, sono 2000 anni fa questa storia. E sono tutto fisso. Un panorama incantevole, un luogo bellissimo. Andiamo a cena. Non si può. Perché? Aspettiamo Godot. Già, è vero. Ma sei sicuro che era qua che dovevamo aspettare? Ha detto davanti all'albero, mi pare. Ma che ragazza era la Brenda? Un salice piangente. E le foglie dove sono? Può darsi che è morto. Ha fatto dei chiacchiere. Ha finito di piangere. A meno che non sia la stagione giusta. Ma non è che poi questo è un arboscello? Un? No, aspetta, che cosa avresti insulato? Che siamo nel posto sbagliato? Avrebbe dovuto essere già qui. Non ha detto che sarebbe lui di sicuro. E se non viene? Niente, torneremo domani, dopodomani, quando sarà, prima o poi arriverà. E poi scusi, già siamo venuti ieri. Allora, che cosa abbiamo fatto ieri? Non esagerare. Che cosa abbiamo fatto ieri? No, va bene, la domanda l'ho fatta io. Allora, ieri hanno tutti, ti spiego. Che cosa abbiamo fatto ieri? Dunque, ieri siamo erano tutti e due con i pantaloni. Che cosa abbiamo fatto ieri? E dopo il tempo di raggio. Allora, siamo scesi lungo la scappata. Ieri. Avevamo tutti e due i pantaloni. Ieri. Sì, ieri, l'ho capito. Ieri. Siamo scesi. Ieri. Questi. No, però no, ce no. E c'è una bomba. Ieri. Vado a mettermela. Ieri. Oh, ma... ieri. Guarda, tu per mettere i dubbi sei un campione, Io per me dico che eravamo qua. Perché il posto ti sembra familiare? Ma non ho detto questo. E allora? Ma non vuol dire. Però, quell'albero! Ma sei sicuro che era stasera che dovevamo aspettarlo? Ha detto sabato, mi pare. Dopo il lavoro. Sì, devo aver preso appunti, sì. Ma quale sabato? E poi? È sabato oggi? Non è che oggi è domenica, Oppure lunedì? No, martedì? No. O venerdì? E momento. O giovedì? Non è possibile! Ma come si fa? Ma se quello è venuto per niente ieri sera, stasera non torna! Ma se tu che hai detto che è venuto ieri sera? Potrei sbagliare. Eccola là, sei sbagliato, lo sapevo. Stiamoci un poco zitti, se ti va. Mi va. Mi va. Gogo? Gogo? Gogo! Oh, zitto sangue, stavo dormendo, non mi fai mai dormire! Mi sentivo solo. Ho fatto un sogno. No, non raccontarlo! Ho sognato che... Non raccontarlo! Ma chi vuoi che li racconti? I miei incubi privati saranno a te. Meglio che restino privati. Certe volte mi domando se non faremmo meglio a separarsi. Sì, non andresti lontano. Questo sarebbe effettivamente un grave inconveniente. Non è vero, Lidi, che sarebbe effettivamente un grave inconveniente? Data la bellezza del luogo, la bontà dei viandanti. Volevi dirmi qualche cosa? No, non avevo niente da dirti. E dai, scusami, ti sei offeso. Dammi la mano. Dai, dammi no, la mano. No. Vieni qua. Vieni qua. Abbracciami. Dai, vieni. Madonna, ma tu puzzolai. Fa bene i reni. Allora, che facciamo? Aspettiamo. Sì, ma mentre aspettiamo? E se ci impiccassimo? Sarebbe un buon modo per farselo venire duro. Con tutto quel che ne consegue. E dove cade, vedo? No, scusi, nascono le mandragole. Azz. Ecco perché quando le strappano urlano, non lo sapevi? E becchiamoci subito. Ma un ramo non mi fiderei. Beh, si può sempre provare. Prova prima di te. No, dopo di te. No, prima di te. Ma perché? Perché tu pesi meno di me. Appunto. Non capisco. Ma cerca di ragionare. Non capisco. Ora ti spiego. Gogo, leggero. Sì. Ramo non si rompe. Gogo, muore. Didi pesante. Ramo si rompe. Didi solo. Giusto, non ci avevo pensato. Chi più può, meno può. Ma sei sicuro che io peso più di te? Ma che ne sai, lo dici sempre tu. E poi c'è una probabilità su due o quasi. E allora che si fa? Non facciamo niente, più prudente. Senti, sentiamo prima cosa ci dirà. Giusto. Ma cos'è che poi gli abbiamo chiesto esattamente? Niente di preciso. Una specie di preghiera. Ecco. Una vaga supplica. Presta poco. E lui cosa ha risposto? Ha detto che si sarebbe visto. Che non poteva promettere nulla. Che doveva pensarci su. A mente riposata. Consultarsi con la famiglia. Con i suoi amici. I suoi agenti. I suoi corrispondenti. I suoi registri. I suoi conti in banca. Prima di pronunziarsi. È naturale. È vero. A me pare. Anche a me. E noi? Qual è la nostra parte in tutto questo? La nostra parte? Non è perfetta. No, la nostra parte è quella del mendicante. A questo ci siamo ridotti. Ah, perché il signorino ha qualche esigenza speciale. Mi faresti ridere se mi fosse consentito. Non siamo legati. Di. Ascolta! Non sento niente. Mango io. Mi fate mettere a paura. Credevo che fosse lui. Chi? Godò. Figurati, invento nelle carte. Sembrava lo grida, ci avrei giurato. Che credevi a fare? Per incitare il suo cavallo. Andiamocene. Non si può. Andiamocene. Sai che ti dico? Dormiremo a casa sua. Al calduccio, all'asciutto, sulla paglia, con la pancia piena, sarà il caso di aspettare. Che dici, non credi? Mica tutta la notte. Ma mica notte, guarda il giorno. Ho fame. Vuoi una carota? Non c'è altro. Ho anche qualche rapa. Dammi una carota. Grazie. Ma che se la rapa? Ah, scusa, no, sono confuso, aspetta. Porca troia, sono solo rape. Ah, ecco. Tieni. Grazie. È buona la carota? Ah, ferma. Ridammi la rapa. Gli ho fatto una domanda, mi ha già risposto. Buona sta carota? Uno zuccherino. Meglio così, meglio così. Che mi stai dicendo? Non mi ricordo. Mi fa una rabbia. Ah, aspetta, mi sta venendo. Dunque? Non siamo legati. Non capisco niente. Ti domando se siamo legati. Legati? Legati. Ma legati come? Mani e piedi. A chi, da chi? Al tuo grand'uomo. A Godò. Cioè, legati a Godò. Ma no, ma non sia mai, almeno non ancora. Si chiama Godò. Credo. Che strano. Più si va avanti e meno mi piace. Per me è il contrario. E cioè? Più vado avanti, più mi abituo al gusto. E questo sarebbe il contrario. Detenti, eh? È cattivo con gli strani? Oh. E lui? Chi? Godò! Mi presento! Pozzo! Ma no! Ha detto Godò! Ma no! Scusi, lei è il signor Godò? Mi chiamo Pozzo! Questo nome non mi dice niente. Io gli ho chiesto se questo nome non mi dice niente! Pozzo! Gozzo! Gozzo! Gozzo! Gozzo! Cioè no! Ho conosciuto una famiglia Gozzo. Il padre ricamava. Ma vaffanculo! Noi non siamo di qui, signore! Ma siete pur sempre degli esseri umani, a quanto vedo, della mia stessa specie, della stessa specie di pozzo di origine divina! Vale a dire? Chi è Godò? Godò! Mi avete scambiato per Godò? No, no, no, neanche per mister. E chi è? Oh, beh, diciamo un conoscente! Ah! No, scusa, noi lo conosciamo appena! Non lo conosciamo molto bene! Io per me non sarei nemmeno capace di riconoscere! Ma come avete scambiato per lui? No, il fatto è, signore, che data l'attesa, l'oscurità, la fama, l'arbolezza, ho creduto, ma per un momento... Non gli dia ascolto! L'attesa, ha detto? Allora lo stavate aspettando? Ecco, veramente? Qui, sulla mia terra! Non pensavamo di far male! L'intenzione era buona! La strada è di tutti. È quel che si diceva, sì. È una vergogna, ma è così. Ma non è colpa nostra. Non ne parliamo più. In piedi! Oh, ogni volta che mi cade mi si addormenta. Alzati, carogna! Ah, avanti! Indietro! Voltati! Oh. Cari amici, sono felice di avervi incontrato. Ma oh, sì, sinceramente felice. Più vicino! Alzati! Capirete, la strada è lunga, è molto lunga. Prima, dico... saranno quasi 6 ore filate senza incontrare nessuno, Seggiolino! Ah, no, no, no! Mantello! Perché c'è un filo di frescura nell'aria, vero? Mantello! Sì, to! Tieni questo! Buon! Oh! Vi dirò! Non posso fare a meno per troppo tempo di... Frusta! Oh, non posso far meno per molto tempo della vicinanza dei miei simili anche quando mi somigliano imperfettamente. Seggiolino! Ecco. Più vicino! Oh, indietro! Ecco perché con vostro permesso mi tratterò un momentino con voi prima di avventurarmi oltre. Paniere! Paniere! L'aria fresca mette fame, Ecco qua. Oh. Indietro! Più indietro! Perché puzza un po', Allora, alla nostra, Ma che cosa? All'aria stanca! Perché non posso essere pagato? Boh, che ne so. Attenzione! Proviamo, ti dico che cosa. Guarda un po' questo. Che cosa? Il collo. Ma non vedo nulla. Vieni da questa parte. Buono. Carne viva. Mi la corda. A forza di sfregare. Non c'è che fare. Non è brutto, eh? Brutto pare. Un buon femminale. Un deficiente. Forse un idiota. E guarda gli occhi. Che cosa? Sono sporgenti. Sì, prova a dirgli qualcosa. Sì, certo. Dai. Signore? Signore? Oh, lasciatelo stare, non vedete che vuol riposare? Pagliere! Vai indietro, mo, Vai ben indietro! Aspetta, mo, aspetta! Oh, acceva meglio, molto meglio. Signore, mi scusi, signore. Dica pure, buon uomo, Lei non mangia più, non ha bisogno di quegli ossi. Ma non puoi aspettare un po'. Giusto, più che giusto, se ho bisogno di quegli ossi. No, personalmente non ne ho bisogno, predatore. Ma di regola gli ossi andrebbero a Facchino, è a lui che dovete chiedere, perciò. Chieda pure, non abbia mica paura, le risponderà. Signore, mi scusi, signore. Ehi, tu, maiale, rispondi! Prego, parli pure. Signore, lei non ha più bisogno di quegli ossi, vero, signore? Signore, venga. Rispondi! Ne hai bisogno, sì o no? 1, 2, 3! Prego, mi prenda pure, Però strano, è la prima volta che mi rifiuta l'osso. Non vorrei mi facesse lo scherzo di apparare. È una vergogna! A lui è qualcosa in particolare? Trattare una persona in questa maniera è un caso umano. È una vera e propria vergogna. Uno scandalo. Siete severi, cos'è? Non può più sopportare la mia presenza? Vabbè, io sarò poco umano, d'accordo, ma non mi sembra una cosa fondamentale. Lei stia attento laggiù, a non commettere un'imprudenza. Benissimo. Facciamo un'ipotesi, per esempio, che voi vogliate partire adesso finché è ancora giorno, perché nonostante tutto è ancora giorno. Bene, doveva finire in questo caso il vostro appuntamento. Si è spenta, sto accendendo. Doveva finire in questo caso il vostro appuntamento con quel godin, capite che voglio dire? Da qua dipende il vostro avvenire, o quantomeno il vostro avvenire immediato. Ha ragione. Ma chi gliel'ha detta lei? Finalmente si è deciso a rivolgermi di nuovo la parola, Finiremo per diventare amici noi due. Ma che vuole questa mia? Perché non posa i suoi bagagli? Anch'io sarei felice di incontrarlo, sì. Ogni volta che incontro qualcuno sono contento. Perfino dalle persone più mediocri ci si arricchisce, ci si istruisce, si apprezza di più la propria fortuna. Perfino voi due, ma sì, perfino voi due. Chissà che non mi stiate lasciando qualcosa. Perché non posa i suoi bagagli? Ma la cosa mi stupirebbe. Scusi, ma le hanno fatto una domanda, Domanda? Chi? Che domanda? Oh! Fino a poco fa mi chiamavano signore Tremand, adesso mi fate le domande, mi fanno. Oh, qui si va a finire male, Adesso ti ascolto. Ecco, adesso glielo puoi chiedere, pronto? Chiedere cosa? Perché non posa i suoi bagagli? È quello che vorrei sapere anch'io. Ma chiedilo a lui, no? E voi mi state chiedendo perché non posa i suoi bagagli, come dicevo. Eccolo là. È d'accordo anche lei? Soffia come una foca. Adesso ve lo spiego io. Basta, fermo lei, per favore, è così, mi rende nervoso. Che c'è? Sta per parlare. Oh, ecco qua. Pronti. Allora, siamo tutti, tutti mi guardano, guardami anche tu, porco. Oh, benissimo. Allora, via che si parte, Attenzione, via. Esseri, unures. Benissimo, allora via che si parte, siamo qua, siamo tutti, tutti mi ascoltano, vieni più vicino, maiale. Oh, benissimo. Ehi tu lassù, non mi piace mica parlare a vento, Attenzione, allora, via che ci siamo e si parte. Dunque, com'era la vostra domanda esattamente? Ah, io me ne vado. No, fermo, allora no, la domanda è esattamente... Che interrompa lei, parliamo tutti insieme, non andiamo da nessuna parte. Che stavo dicendo, che stavo dicendo? Magari, perché sempre tenere? Cerchiamo di capirci qualcosa, forse che non ne ha diritto? Ma sì che ce l'ha, mollo giù! E allora? È lui che non vuole! Questo si chiama ragionare, ma perché non vuole? Ora, a bel di smè, ve lo dico io, lo fa per impressionarmi, per costringermi a tenerlo ancora al mio servizio. Come? Non mi sono spiegato ancora bene, Cerca di impietosirmi perché io sia tentato di non separarmi da lui. Ma le cose non stanno neanche in questa maniera qua. Vorrebbe sbarazzarsene. Vorrebbe farmela, ma non me la farà. Sbarazzarsi. Mi si è messo in testa che vedendolo così volenteroso io sarei tentato in avvenire a riutilizzarlo come facchino. Ma come facchino non vale mica niente, non è il suo mestiere. Lei vorrebbe sbarazzarsene. Ma perché si è messo in testa che vedendolo così infaticabile io dico rinuncerei alle mie decisioni, come se mi mancassero, questo è il suo calcolo ignobile, come se mi mancassero gli uomini di fatica. Mi sembra di aver risposto alle vostre domande, se ne avete altre sono qua. Lei vorrebbe sbarazzarsene. Da notare poi, è molto casuale che io sia al posto mio e al posto suo. Se il caso non avesse deciso altrimenti, capito? A ognuno il suo. Lei vorrebbe sbarazzarsene. Come ha detto? Lei vorrebbe sbarazzarsene. Ma sì, ma certo! Ma perché non l'avete detto prima? Ma vaffanculo! Ma invece vero di cacciarlo, come avrei potuto tranquillamente fare, invece diciamo di metterlo alla porta zampato nel culo, io invece no! In tutta la mia immensa bontà lo sto conducendo al mercato di San Salvatore, dove conto di ricavarne qualcosa. Certo! Queste creature qua è quasi impossibile riuscire a sbarazzarsene. sbarazzarsene. Per fare le cose per benvenino bisognerebbe ammazzare. Piange. Mi piange. Anche un cane vecchio avrebbe più dignità. Parlando pure, se la impietosisce tanto, teniamo qui, ecco. Gli asciughi gli occhi così si sentirà meno abbandonato. Vai. Lascia fare me. Sì, però fate in croce, che se no smette di piangere. L'avevo detto no, che non gli piacciono gli estranei. Fa vedere, oddio salvila. Vabbè, meno male. Non potrò più camminare. No, non ti preoccupare, nel caso ti porterò io. Ha smesso. In un certo senso mi ha sostituito lei. Ogni volta che qualcuno si mette a piangere, qualcun altro, chissà dove, smette. Le lacrime del mondo sono immutabili. Ed è così anche per il riso. Non diciamo perciò troppo male della nostra epoca. Non è più disgraziata delle precedenti. Non diciamone però neanche troppo bene. Non parliamone affatto. È vero. È vero però che la popolazione è aumentata. Cerca di camminare. Volete sapere chi è che mi ha spiegato tutte queste belle cose qui? Lui. Ma non verrà mai la notte senza di lui. Io non avrei mai pensato. Io non avrei mai sentito altro che cose volgari relative alla mia professione di... Vabbè, ma non importa, la bellezza, la grazia, la verità di prima classe erano tutte robe a cui sapevo di non poter aspirare. Ed è stato allora che mi sono fatto un ognuk. Che si è fatto? Un ognuk. Eh già, ormai saranno quasi 60 anni che dura questa storia qua, Lo so, non me li darebbe mai nessuno, vicino a lui sembra un giovanottino. Sì, ma che cos'è uno tu? Che... Ma voi non siete di questa parte, ma non siete neanche di quel mondo! Ma un tempo c'erano o non c'erano i buffoni? Oggi ci tengono gli knook. Oddio, chi se li può permettere? Cioè, lei adesso lo caccia via. Dopo tanti anni di servizio, un servitore così vecchio e fedele. Cavolo. Dopo averne succhiato la sostanza, lei lo butta via come se fosse una buccia di banana. Uno knook. Deve riconoscere che... Ma io non posso più. Io non posso più sopportare. Voi non avete idea di che cosa mi fa. È terribile. Bisogna proprio che lui vada via, perché io ci divento pazzo. Io non ne posso più. Non ne può più. Diventa pazzo. È disgustoso. Ma è come osa? Un padrone così buono trattando a questa maniera. Tu un tempo era buono, era gentile, mi coccolava, mi rendeva migliore, ma adesso mi uccide. Signori, io non so che cosa mi sia capitato. Io vi chiedo umilmente scusa, anzi, vi prego di dimenticare l'accaduto. Io non ricordo esattamente cosa posso aver detto, ma vi posso assicurare che non una delle parole che ho proferito risponde a verità. Oh, mi sembro il tipo d'uomo io capace di soffrire. Ma andiamo, via! È stata proprio una bella serata. Indimenticabile. E non è finita. Sembra di no. È appena cominciata. È terribile. Guarda, sembra di stare a teatro. Al circo. Al varietà. Al circo. Oh. Torno subito. In fondo al corridoio a sinistra. Tienimi il posto, Ah, queste sono le rape. Se n'è andato senza nemmeno salutare. Ma non è gentile, avrebbe dovuto trattenerlo. Si era già trattenuto abbastanza da sé. Beh, se dice lei. Venga! Che cosa? Guardi! Mi devo tirar su! Venga a vedere, questo! Guardi, guardi, guardi! Ha finito! Ma chi gli prende? Ma che bravo bravino! Si va calmando, D'altronde, tutto si va calmando. Lo sento, una grande pace discende. Sentite, parla, dorme. Ma non verrà mai la notte. E non succede niente. Nessuno va, nessuno viene. Voi pensavate di partire prima del previsto? Il fatto è, capisce? Ma no, è naturale, più che naturale. Anch'io, se fossi al vostro posto e avessi un appuntamento con questo tal Godin, Godin, Godot, come dite voi, anch'io aspetterei che fosse notte fonda prima di lasciar perdere. Ecco. Non siete di queste parti qua. Voi non avete idea di che cosa sia il crepuscolo. Cosa di tanto straordinario? Come cielo, voglio dire. È pallido e luminoso come qualsiasi altro cielo a quest'ora del giorno, di questa stagione, quando fa bello. Un'ora fa, ma sì, un'ora fa circa, dopo averci inondato di luce rossa e bianca fin dalle 10:30 del mattino, senza tregua, ha cominciato a perdere il suo splendore. A impallidire pian piano, adagio, finché non si muove più. Ma dietro quel velo di calma e di dolcezza, la notte galoppa e si getterà su di noi proprio nel momento in cui meno ce lo aspettiamo. Siamo avvisati. Si può pazientare. Si conosce la situazione. Non è il caso di preoccuparsi. Non ci resta altro che aspettare. Ci siamo abituati. Come sono andato? Come sono andato? Bravo, discreto, passabile, bravino, decisamente calmo. No, guardi, proprio bravo, bravissimo. Lei, signore? Ah, a me mi è piaciuto assai. Meno male, ho molto bisogno del vostro incoraggiamento, però pure voi. Mi venite proprio stasera, che sul finale sono un po' calato. No, guardi, forse un pochino, ma poco. Io credevo che l'avesse fatto apposta. Proprio stasera che la memoria mi tradisce. E mentre aspettiamo non succede niente. Sa noia, Piuttosto. E lei, signore? Onestamente non c'è da morire dalle risate stasera. Voi siete stati tanto carini con me. Ah, per carità, si immagini. No, siete stati tanto gentili che io mi chiedo come posso fare per aiutare questa brava gente che si annoia. Forse... da accusare l'esordio. Ma tu sei pazzo, non siamo mendicanti. Sì, cosa posso fare per aiutarli a passare il tempo? Io ho fatto delle cose per loro, gli ho dato questo e quello, gli ho dato i miei ossi, gli ho raccontato di questo e di quello, gli ho spiegato il crepuscolo, tutto questo va bene, per non parlare d'altro, ma può bastare. È questo che mi angoscia, può bastare. Non accusare l'esordio. Dai, zitto, famo va. Può bastare, probabilmente sì. Ma io sono generoso! Ma cosa non le sono? E basta! Oggi è il mio temperamento! Bene! Allora, anche se mi rendo benissimo conto che questa sarà una roba di quelle che mi faranno soffrire, ma insomma, via. Allora, eccolo qua! Cosa volete che vi faccia, eh? che canti, che balli, che reciti, che pensi. Ma perché anche lui pensa? Oh, oh! Questo qui, questo è lo bravissimo a pensare ad alta voce, oh! Si poteva starlo a sentire per ore, adesso ormai, vabbè, lasciamo perdere. Comunque, volete che ci pensi qualcosa? Io preferirei che ballasse, sarebbe più divertente. No, non necessariamente, perché è un pochino... Ma non è vero, dici che sarebbe più divertente? No, io per me lo sentirei pensare volentieri. Allora potrebbe prima ballare e poi pensare, sarebbe troppo. Si potrebbe. Ma sì, ma anzi, questo sarebbe l'ordine naturale, quindi... E allora balla per il ballo. Boom, allora, boom. Hai sentito? Non succede mai che si rifiuti. E che le spiego dopo. State là, state là. Balla! Porco! Vabbè. E questo è tutto. No. Continua! Che scalda un pochino. Bella forza, questo lo so fare pure io. Ma forse è stanco, no? Oh, forse è stanco! Oh! Questo qui, sto rovino qui, così come lo vedete, ballava l'almea, la farrandola ballava la carmagnola, ballava il fandango, ballava addirittura l'orpaggio, la presente l'orpaggio, sto rovino qui, così come lo vedete, faceva dei salti alti così, oh, adesso ormai si è ridotto a non ballare altro che questa danza qui, ma è, dai, piuttosto... Volete sapere come la chiamo? La morte dell'albernaio. No. Il cancro del vegliardo. L'agonia della cornacchia. Il rantolo del sorcio. Il ballo della rete. Come si immagina di venire impigliato in una rete? Non succede niente, nessuno va, nessuno viene, è terribile. Senta, gli dica di pensare. Gli dia il suo cappello. Il suo cappello. Non può mica pensare senza cappello. Dagli il suo cappello. Oh, io no. Perché? Ma mette paura. E allora glielo do io. No, digli di prenderselo. Sì, ma guarda che è meglio darglielo. No, gli dica di prenderlo. Ma proprio meglio metterglielo. No, ecco, glielo metto io. No. No, faccia. Pensa, maiale! Vabbè, ma che non è? No, che era messo un po'. Allora. Pensa, maiale! Considerata l'esistenza, così come traspare dai recenti lavori pubblici di Wanson e Batman, di un dio personale qua, dalla barba bianca, qua, fuori del tempo e dello spazio, il quale, dall'alto della sua divina apatia, della sua divina tambia, della sua divina afasia, ci vuol tanto bene, salvo le debite eccezioni, non si sa perché, ma prima o poi verrà fuori. E a somiglianza della divina Miranda, soffre con quanti si trovano nel tormento, nel fuoco, così il fuoco, le fiamme, se continua ancora un po', finiranno per mettere fuoco alle polveri. Nella fattispecie, porteranno l'inferno nei cieli. A volte così azzurri e calmi, così calmi, di una calma che pur essendo intermittente, è non di meno la benvenuta, ma non anticipiamo. E considerando inoltre che, a seguito delle ricerche incompiute, ma tuttavia premiate dalla Accademia, di antropometria, di Werner Presetes tue corrat, resta stabilito. Senz'altra possibilità d'errore, resta stabilito, lido, lido, quanto segue, segue, segue. Ma non anticipiamo, in seguito ai lavori di Quanzone Batman, risulta altrettanto chiaramente, tanto chiaramente, tenendo conto dei tentativi di Testue Corrad, risulta il luogo, contrariamente all'opinione contraria, che l'uomo, insomma, in breve, che l'uomo, in breve, insomma, malgrado i progressi dell'alimentazione e dell'eliminazione dei residui, va via via dimagrendo. E anche lo stesso, parallelamente, non si sa perché, malgrado l'incremento della cultura fisica e della pratica degli sport, quali sarà più. Così sono vendicato. In piedi! Panca! Su! Oh, oh, oh! Datemi una mano! Su! Andiamo come su! Sei in piedi! Che sia merito! Su! Lo fa apposta! Avanti! Vieni ben presto! Mi sa preso! Attenzione! Lasciatelo solo! Avanti! Indietro! Voltati! Funziona! Adesso può anche camminare, beh, amici, cari amici, io sono qui e dico per augurarvi, vero, per potervi augurare, per augurare, ma chi è di voi due che puzza così? A lui puzza il fiato, a me i piedi. Io bisogna proprio che me ne vada. Allora, addio. Addio. Addio. Addio. Addio. Addio. Addio. E molte grazie. Grazie anche a me. Non c'è di che. Ma sì. Ma no. Ma sì. Ma no. Ma no. Io non riesco a andar via. È la vita. Avanti. Ha preso la direzione sbagliata. Ma no. E che ha bisogno di una lunga rincorsa. Avanti. non è mica il suo mestiere. Allora, addio! Addio! Addio! Beh, ha fatto passare il tempo, eh? Sarebbe passato lo stesso. Sì, ma più adagio. E adesso che facciamo? Non lo so. Andiamoci. Non si può. Perché? Aspettiamo Godot. Già, è vero. Sono molto cambiati, eh? Chi? Quei due. È probabile. Ma che probabile? Hai ben visto anche tu. Se ti fa piacere, ma io non li conosco. Ma sì che li conosci, io ti metti di tutto. Ma sì che li conosci. Ma se non ci hanno nemmeno riconosciuti. Ma questo non significa niente, anch'io ho fatto finta di non riconoscerli e poi non ci riconoscono mai. Basta, qui ci vuole. A meno che non siano gli stessi. L'altro piede, Didi! Ci risiamo. Vieni avanti, ragazzo mio. Il signor Alberto. Vieni. Sono io. Che cosa vuoi? Vieni. Vieni avanti, ti dico. Allora parla. È il signor Godot. Oh, e perché sei venuto così tardi? Hai un messaggio del signor Godot? Sì, signore. Parla. Perché sei venuto così tardi? Lasciali in pace, non mi seccare. Lo sai dove sono? Non è colpa mia, signore. Non deve essere colpa mia. Avevo paura, signore. Paura di che? Di noi? Rispondi. Forse ha avuto paura di quei signori. Da quanto tempo sei arrivato? Da un bel po', signore. Hai avuto paura della frusta? Sì, signore. Delle urla? Sì, signore. Di quei due signori? Sì, signore. Li conosci? Sì, signore. Sei di queste parti? No, signore. Sono tutte bugie! Non c'è la verità! Ma è la verità, signore! Lasciali in pace! Che ti prende? Che ti prende? Sono infelice! Ma no, da quando? Me ne ero dimenticato. Vabbè, sono scherzi che fa la memoria, dai. Allora, parla. Signor Godot. Sì, aspetta un attimo, ci siamo già visti, se non sbaglio. Non lo so, signore. Mi conosci? No, signore. Sei già venuto ieri? No, signore. È la prima volta che vieni? Sì, signore. Su, parla. Il signor Godot mi ha detto di dirvi che non verrà questa sera, ma di sicuro domani. Lavori per il signor Godot? Sì, signore. Che fai? Le guardo le capre, signore. Te vuole bene? Non lo so, signore. Non te mena? Mi mena, signore. Chi è che mena? Mena mio fratello, signore. Hai un fratello? Sì, signore. Perché non te mena a te? Non lo so, signore. Te ne vuole bene? Non lo so, signore. Ti dà abbastanza da mangiare? Ti fa mangiare bene? Ah, abbastanza bene, signore. Ti senti infelice? Oh, senti, ho fatto una domanda, senti, donna. Sì, signore. Allora, non sai se te senti infelice o no? No, signore. Mango io. Dov'è che dormi? Nel granaio, signore. Sul fieno? Sì, signore. Con tuo fratello? Sì, signore. Vabbè, vattene. Cosa devo dire al signor Godot, signore? Boh, digli che ci siamo visti. Ma sei sicuro che ci siamo visti? Sì, signore. Ma che fai? Quello che fai tu? Guardo la luna? No, con quelle scarpe. Le lascio là. Verrà qualcuno con un piede più piccolo del mio e le mie scarpe lo faranno felice. Ma non puoi andare in giro mica scalzo. Che se lo fa? Gesù! Ma come te ne esci? Come fai a paragonarti a lui? Mi sono paragonato a lui tutta la vita. Ma che c'entra? Lì faceva bel tempo, faceva caldo. E si sbrigavano a metterti in croce. Mamma mia, non c'è nulla da fare qua. Né qui, né altrove. Dai, non devi buttare giù. Hai visto che ha detto quel ragazzo? No. Che domani verrà Godot, che te pare? E allora non ce ne so altro da fare che aspettare qui. Ma che stai scherzando? Vieni, dai, vieni al ritorno, dai. Peccato che non abbiamo un pezzo di cotta. Vieni, fa freddo, dai. Ricordami di portare una cotta. Sì, vieni. Ma da quanto tempo che ti stiamo insieme dal mattino alla sera? Non lo so. Una cinquantina d'anni. Ti ricordi quel giorno che mi sono gettato nel fiume? Facevamo la vendemmia. Tu mi hai ripescato. Sono cose morte e sepolte. E i miei vestiti sono asciugati al sole. Dai, non pensarci su, vieni. Aspetta. Vieni, dai, fa freddo. Mi domando se non faremo meglio a restare ciascuno per conto suo. Non eravamo fatti per seguire la stessa strada. Non è sicuro. Non c'è niente di sicuro. Potremmo sempre lasciarci, se credi. Ormai non ne vale più la pena. È vero. Ormai non ne vale più la pena. Allora. Un cane andò in cucina e s'accostò. Un cane andò in cucina e s'accostò al fornello. Allora col coltello il fuoco lo sgozzò. Ci ho visto gli altri cani scavare una fossa e sulla terra smossa scrissero con la coda. Un cane andò in cucina e s'accostò al fornello. Allora col coltello il cuoco lo sgozzò. Ci ho visto gli altri cani scavare una fossa e sulla terra smossa scrissero. Un cane andò in cucina. Sei di nuovo qui? Dai, vieni che ti abbracci. Oh, ma che c'è? Dove sei stato? Ma che ti hanno menato? Non toccarmi. Non dirmi niente e non domandarmi niente. Resta con me. Ma che tu forse mi hai lasciato? Mi hai lasciato andare via. Ma guardami, guardami, ti dico. Stavi cantando poco fa. Io no. Stavi cantando. Ma ti dico te no. Stavi cantando. No, cantando. T'ho sentito! È vero, me ne ricordo! Lo vedi, sto struzzo! Pensavo, è rimasto solo! Pensa che me ne sono andato per sempre, eppure canta! Scusami, al cuore e all'umore non si comanda! Io mi sentivo in grandissima forma, non lo so, saranno state le rame! Non mi sono alzato manco una volta stanotte! Lo vedi, perfino a pisciare vai meglio quando non ci sono! Sentivo la tua mancanza, va bene, ma nello stesso tempo ne ero... contento. Contento! No, forse non è la parola giusta. E adesso? Adesso rieccomi qui, tranquillo, ecco. Rieccoci qui. Lo vedi che appena ci sono io va subito peggio. Qui, e anch'io, sto meglio quando sto da solo. Ah, perché? Già sei venuto qui altre volte lì? Non lo so. E allora? Tu non hai fatto niente, non hai fatto niente e non potevi fare niente, non potevi fare niente per impedirlo che mi picchiassero. Io non ti avrei lasciato menare, ecco. Erano in 10. Io non ti avrei messo in condizione di essere menato. Se non facevo niente. E allora perché ti hanno menato? Non lo so. Senti, Coco, ci sono cose che a te sfuggono e a me non sfuggono. Sei d'accordo con me? Se ti dico che non stavo facendo niente. Ti dico che stavo facendo niente. Se ti dico che non stavo facendo niente. E di nuovo non la vuoi venire. Che ti dico, no. Qualcosa è cambiato qui da ieri. E se non viene? Vedremo il da farsi. Ti dico che qualcosa è cambiato qui da ieri. Guarda quell'albero che sei. Ieri non c'è. Ma certo che c'era, ci è mancato poco che non ci impiccassimo. Che non ci impiccassimo. Ma tu non hai voluto, ti ricordi? Te lo sei sognato. È impossibile che te dimentichi tutto te. Io sono fatto così, o non dimentico mai o dimentico subito. E Pozzo e Laghi, ti sei dimenticato pure questi? Pozzo e Laghi. Oddio, si è dimenticato tutto. Mi ricordo di un nano che tirava calci e poi si è messo a ballare. Era Laghi. Questo me lo ricordo, ma quando è successo? E quello che lo tirava sotto, lo ricordi? Mi ha dato degli ossi. Era Pozzo. E dici che è successo ieri tutto questo? Si capisce. In questo stesso... Certo che non ti ritrovi. Ritrovarmi. Che cosa vuoi che mi ritrovi? Ho trascinato la mia sporca vita attraverso il deserto e lui vuole che ci vedo le sfumature. Calma, calma, eh. E allora non venirmi a seccare con i tuoi panorami. Parlami del sottosuolo. Io me ne vado. A chi? Un cane andò in cucina. E sa cosa fornello. Il cane lo sgozzò. Dove hai messo le scarpe? Le avrò gettate via. Quando? Non mi ricordo. Perché? Non lo so. No, ma perché le gettate via? Mi facevano male. Guardale! Nel posto preciso dove le lasciate ieri sera. Ma queste non sono le mie. Non sono le tue. Le mie erano nere, queste sono tutte... Fermo, capisco. Queste sono tutte... No, è tutto semplice come la PC. Allora, è venuto qualcuno che ha preso le tue e ha lasciato le sue. E perché? Perché le sue non gli andavano bene, allora ha preso le tue. Ma le mie erano troppo strette. Per te, ma non per lui. Basta, andiamocene. Non si può. Perché? Aspettiamo Godot. Già, è vero, e allora come si fa? Non c'è nulla da fare. Ma io non ne posso più, ho fame. Vuoi un ravanello? Non c'è altro. Ci sono ravanelli e rape. Niente più carote. Mamma mia, basta queste carote. Allora, dammi un ravanello. questo è nero. È un ravanello. A me piacciono quelli rossi. Vado a cercarmi la carota. Mamma mia, tutto questo comincia a non avere alcun senso. È ancora troppo. Basta, me ne vado. Preferisci di stare lì senza fare niente, devi? Sì. Come vuoi. Andiamocene. Non si può. Perché? Aspettiamo Godot. Già, è vero. Ma non potresti stare un po' freddo? Un po' freddo! Siamo venuti troppo presto. È sempre al cadere della notte. La notte non cade mai. Tutto a un tratto cadrà come ieri. E poi sarà notte. E noi potremmo andarcene. E poi sarà di nuovo giorno. Che fare, che fare? Mamma mia, non ti vuoi lamentare sempre in continuazione. Piagnisteo continuo. Basta, io me ne vado. Tom! Il cappello di Lucky. Siamo stati qua un'ora buona e non ce ne siamo accorti. Benissimo. Non mi vedrai mai più. Allora è il posto giusto, possiamo stare tranquilli. Beh, deve essere un bel capello una volta, eh? Tieni! Cosa? Tieni questo! Ti va di giocare? Giocare a cosa? A pozzo e laghi. Mai saputo. Semplicissimo, guarda. Io farò laghi e tu farai pozzo. Allora, dimmi di pensare. Che cosa? Dimmi, pensa a maiale! Pensa a maiale! No, non mi riesce. Dimmi di ballare. Io me ne vado! Dimmi! Balla! Porco! Cazzo del gioco. Gogo? Gogo! Gogo! Gogo! Meno male, sei tornato! Sono maledetto! Dove sei stato? Credevo che fossi partito per sempre! Fino a limite del pendio, stanno venendo! Chi? Non lo so! Quanti sono? Non lo so! Ma dai, sarà Godot, andiamo in incontro! Vieni, saremo salvi! Che venga Godot, abbiamo lottato il giorno, tutto il giorno fino a sera inoltrata. Adesso è finita, senti, siamo già domani. Ma se sono soltanto di passaggio. Aiuto! Senti! Senti come il tempo trascorre in modo diverso. Il sole tramonterà, la luna si alzerà e noi saremo di nuovo qui. Se non si fermeranno le... A noi basta. Pietà! Povero Pozzo! Io lo sapevo che era lui! Chi? Godot! Ma non è mica Godot! Non è Godot! Non è Godot! E allora chi è? È Pozzo! Lasciano me, sono io, tiratemi su! Vuole tirarsi su! Andiamocene! Non si può! Perché? Aspettiamo Godot! Già, è vero! Forse ancora degli ossi per te! Degli ossi? Sì, di poco, ti ricordi? Era lui? Sì! Se gli dessi una mano! A che sto? A tirarsi su! Lascia che si tiri su da su! Ma non può! Che cos'ha? Non lo so, non perdiamo tempo in chiacchiere inutili. Non capita spesso di aiutare qualcuno che è in difficoltà. La tigre si precipita sempre in aiuto dei suoi congeneri o si butta nel folto della foresta. Non è questo il punto. Il punto è che in questa immensa confusione noi aspettiamo che venga Godot. Sì. O che cada la notte. Siamo venuti alla punta. appuntamento, punto e basta. Non siamo dei santi, ma siamo venuti all'appuntamento. Quanti uomini potrebbero dire la stessa cosa? Delle masse. Credi? Non lo so. Una cosa è certa, il tempo è lungo da passare in queste condizioni e ci spinge a popolarlo di movimenti. Si nasce tutti pazzi. Alcuni lo restano. Aiuto! Vi darò del denaro! Quanto? 100 franchi! Non basta! Io non arrivo a tanto! Perché dici che basta? No, non arrivo al punto da pensare che non avevo la testa a posto quando sono nato, ma non è questo il punto! 100 franchi, non lo so! Noi aspettiamo, ci annoiamo, non protestare! Noi ci annoiamo! Oggi capita un'occasione che facciamo, la lasciamo cadere. Fra un istante tutto svanirà e noi ci troveremo nel cuore delle solitudini. 200 franchi! Veniamo! Ti ha scorreggiato? Io no. Io neppure. Sono stato io! Che schifo! Vietà! Allora? Va meglio? Chi siete? Oddio, non si ricorda la cippa. Sono cieco. Forse lui vede bene nell'avvenire. Da quando? Un tempo io vedevo, ma adesso... Ma chi siete voi? Siete degli amici? Sarete mica dei briganti! Briganti? Abbiamo forse l'aria di briganti, no? Ma sei cieco, poverino! È vero, perlomeno così dice. Oh, non mi lasciate, eh? No, neanche a pensare. Ah, almeno per il momento. Ah, che ora è? È sera? È già calata la sera? Perché non mi rispondete? È successo tutto ad un tratto? Eh? Oh, non ci vede, ma ci sente una meraviglia. Fate una domanda. È successo tutto ad un tratto? Bel giorno mi sono svegliato ed ero cieco come il destino. A volte ho ancora il dubbio di star dormendo. Quando? Non lo so. Ma se soltanto ieri! Ah! Non parlatemi del tempo, noi ciechi non abbiamo la nozione del tempo! Non vediamo neppure le robe del tempo! Che strano, credevo che fosse il contrario. Io me ne vado. No, dove siamo qui? Non lo so. E saremo mica nella località denominata Il Palco. Non conosco. Ah, a che somiglia questo posto qua? Ma non si può descriverlo, non assomiglia a niente. Ecco, qua c'è un albero. Allora non è il palco. No. Il mio domestico dov'è? È lì. E perché non mi risponde quando lo chiamo? Sembra addormentato, non lo so, forse è morto. Ma volete dire che cosa è successo esattamente? Esattamente. Siete caduti tutti e due. Ah, andate a vedere se è ferito. Ma non possiamo lasciarlo lì. Ma non dovete mica andarci tutti e due. Facci tu. Ecco, bravo, mandi lui che puzza talmente. Dai, vanno a svegliare. Fossi fatto dopo quello che mi ha fatto. Ah, ti ricordi quello che ti ha fatto? Non mi ricordo niente di niente, sei stato tu a dirmelo. Senta, il mio amico c'ha paura. Ma non c'è niente da aver paura. Cosa aspetti? Aspetto Godot. Ciao cuore. Allora, no, il suo domestico l'ha preso a calci. Lui vorrebbe soltanto asciugargli le lacrime. No. Quelle creature là non bisogna trattarle gentilmente, non lo sopportano. E che dovrebbe fare esattamente? Prima di tutto tirate con forza la corda, badando bene naturalmente a non strozzarlo. Normalmente così reagisce, se no addagga un calcione sui maroni o sui denti. Accetti la grigia. Hai visto? Non c'è da avere paura. Potrei vendicarti. E se si difende? No, non si difende mai. Un eroe in tuo aiuto. No. Non perdere mai di vista. Sì. Oh, guarda prima se è vivo. È inutile prendere a calcio uno che è morto. Giusto. Vai. No. Respira. Si può sapere cosa è successo? Il mio amico si è fatto male. Vabbè, Lucky. Allora, è proprio lui. Chi? È proprio Lucky. Non capisco. E lei è pozzo. Ma è naturale che sono pozzo. Ma quelli stessi di ieri? Di ieri? Sì, siete venuti ieri, non si ricorda. Io non mi ricordo che ho incontrato ieri, ma domani non ricorderò che ho incontrato oggi, sicché basta. È inutile chiedermi robe per avere informazioni. Lasciatemi stare in piedi. Lei lo stava portando al mercato di San Salvatore per venderlo. Poi lei ci ha parlato, lui ha pensato, ha ballato, lei ci vedeva benissimo. Vabbè, se le piace così va bene, ma piace stare in piedi! Che cosa fa? Si sta alzando. Ah, meno male. Dove andate di questo passo? Che ne so. Com'è cambiato lei? Corda! Corda! Frusta! Senta, che succede quando vi capita di cadere e non c'è nessuno che può aiutarvi? Aspettiamo di riuscire a rialzarci da soli e poi si riparte. Sì, ma prima di ripartire, gli dica di cantare. A chi? A Lucky. Di cantare? Sì, o di pensare, o di recitare. Ma se è muto. Muto? Non riesce più neanche a gemere. Muto? E da quando? Quando? Basta con queste domande sul tempo! Quando? È grottesco! Un giorno. Mi basta. Un giorno come tutti gli altri è diventato muto. Un giorno sono diventato cieco. Un giorno saremo tutti sordi, un giorno siamo nati, un giorno moriremo, lo stesso giorno, lo stesso istante. Mi basta. Partoriscono a cavallo di una tomba. Il giorno splende solo un istante ed è subito notte. Addio. Che cosa c'è nelle valigie? Sabbia. Avanti! Forse è dormito, mentre gli altri soffrivano. Sto forse dormendo in questo momento. E quando domattina mi sembrerà di svegliarmi, che dirò di questa giornata? Che col mio amico Estragone ho vagato tutta la notte in questo luogo per aspettare Godot. Che pozzo e laghi sono venuti e ci hanno parlato, certamente. Ma anche se fosse, cosa ci sarebbe di vero in tutto questo? Domattina lui mi parlerà dei calci che ha preso e io gli darò una carota. A cavallo di una tomba è una nascita difficile. Dal fondo della fossa il becchino armeggia pensosamente i suoi ferri. Abbiamo il tempo di invecchiare, l'aria risuona delle nostre grida, ma l'abitudine è una grande sordina. Anche per me c'è qualcuno che mi guarda pensando e dice: e lui non sa niente. Dorme, lasciamolo dormire. Io non posso più andare avanti. Ma che ho detto? Signore. Signor Alberto. Ricominciamo. Ti conosci? No, signore. Sei già venuto ieri? No, signore. È la prima volta che vieni? Sì, signore. È il signor Godot che ti manda? Sì, signore. Non verrà questa sera? No, signore. Ma verrà domani? Sì, signore. Hai trovato nessuno per strada? Nessuno, signore. Altri due signori? Non ho visto nessuno per strada. Che cosa fa il signor Godot? O hai sentito? Sì, signore. Allora? Non fa nulla, signore. Come sta tuo fratello? È malato, signore. Per caso non è quello che è venuto ieri? Non lo so, signore. Ha la barba il signor Godot? Sì, signore. Bionda o nera? Mi pare bianca, signore. Misericordia. Cosa devo dire al signor Godot, signore? Digli che ci siamo visti. Ma Sei sicuro che ci siamo visti? E poi dice non ci siamo visti. Già, è vero. Allora andiamo.